9 in punto, la versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, buongiorno, buon venerdì 6 maggio, oggi San Domenico Savio, santo caro a noi torinesi, la cosa ci insegnavano da bambini sempre a metterci il ginocchio con qualcosa sotto le ginocchia, non lo so se questo fosse molto efficace, non sul sottoscritto almeno, però insomma buon domenico. Oggi il tema è obbligato, nel senso che per una trasmissione come quella che conduco, quella che voi ascoltate, una riflessione dedicata al provvedimento assunto ieri dal governo, al decreto sviluppo, primo attuazione del piano nazionale delle riforme che secondo le nuove procedure di sessione di contabilità europea qualche settimana fa il governo ha presentato insieme alla decisione economica e finanziaria che ha preso il posto del vecchio DPF, è pressoché obbligato per tentare di capire che cosa ne può venire. È una misura che è costituita dalla somma di diversi capitoli. Dal punto di vista politico il mio giudizio è che ribadisce ancora una volta il segno della regia unificata all'interno del governo nelle mani di Giulio Tremonti, che abbiano chiesto, evocato, invocato, polemizzato diversi ambiti della maggioranza e anche dall'esterno. Ricordate qualche settimana fa quando Giuliano Ferrara, anzi ormai un paio di mesi fa, quando invocava il famoso colpo di frusta dicendo a Berlusconi: prendi in mano tu il timone della politica economica, levala quel cattivo di Giulio che pensa solo a farti le scarpe centellinando le risorse della finanza pubblica al rilancio dell'economia. Ma in realtà, come si è visto anche nella conferenza stampa di ieri, il Presidente del Consiglio non può assolutamente fare a meno del fatto che la regia e la stesura occhiuta dei provvedimenti sia solo ed esclusivamente al Ministero dell'Economia in via 20 settembre. E come avete visto negli ultimi giorni c'è stato anche un segno politico inequivocabile con le dichiarazioni reiterate anche ieri in conferenza stampa del Presidente del Consiglio, con le quali Berlusconi ha detto: beh, se io mi devo tirare indietro rimarrò sì al vertice del partito, però sia ben chiaro, Giulio Tremonti è in pole position, è in prima posizione per ereditare il ruolo del governo, anche perché, ha aggiunto più volte Berlusconi, in realtà sono i sondaggi che lo indicano come il più titolato a questo ruolo. E questo è un dato oggettivo che per la prima volta costituisce un segnale che il Presidente del Consiglio in qualche misura si sente obbligato a dare, al di là poi del ruolo del cerino che resta nelle mani del Ministero dell'Economia. Allora, questi provvedimenti sono, ripeto, molti sono i capitoli. Oggi i giornali faticano molto a mettere a fuoco l'intera portata del decreto, sicuramente non per fare il difensore del gruppo, ma è il Sole 24 Ore che trovate oggi con più particolari per farvi capire in una mappa ragionata e con anche un dall'A alla Z, per così dire, tutto ciò che c'è nel provvedimento. Diciamo che per le imprese è molto importante sicuramente la parte del provvedimento che introduce gli incentivi fiscali alla ricerca fino a un credito d'imposta per il 90% dell'investimento aggiuntivo in ricerca rispetto alla media degli ultimi 3 anni per i prossimi 2 anni, con un meccanismo che incardina questa ricerca che dà diritto agli incentivi fiscali presso le università. Bisognerà vedere davvero come funziona, perché le imprese sono un po' preoccupate che le grandi e le medie che hanno propri dipartimenti strutture di ricerca non siano obbligate a sentirsi disincentivate, per così dire, dalla ricerca interna se devono solo andare sull'università. Ma sicuramente la scelta netta è stata quella di passare per l'università, anche per consentire in qualche misura all'università quindi di recuperare un po' delle risorse tagliate con i provvedimenti di rientro dei saldi pubblici. Per le imprese è importante questo saldo, questo incentivo sulla ricerca, con la preoccupazione di capire quale sarà il massimo della soglia che regge davvero poi il fisco, perché nel decreto ovviamente il ministro si è riservato il rubinetto in mano, cioè di poter chiudere poi quando deciderà che sarà troppo. Il 90% l'incentivo è di credito fiscale, il credito d'imposta è molto alto come potete immaginare, ma noi eravamo reduci da anni in cui gli autotrasportatori da soli, non me ne vogliano, ma prendevano 4 volte ogni anno il totale degli incentivi a tutta la ricerca delle imprese italiane, che per di più dovevano sottoporsi a quella vergogna che era il Click Day. Quindi usciamo da anni di tensioni tra imprese e governo su questo, quindi vedremo come va in funzione questo. Poi ci sono un blocco di semplificazioni molto forti, di cui le più rilevanti, a mio modestissimo giudizio, oltre che a quelle procedurali, oltre a questa specie di ingiunzione, di ammonimento che il ministro rivolge all'Agenzia delle Entrate dicendo comprendiamoci tutti come contribuenti, ha scritto una lettera come se fosse stato altrove Tremonti in questi anni, ma comunque l'ha scritta e io apprezzo, visto che noi diciamo qua incessantemente che lo Stato si è trasformato a volte in un grassatore intollerabile. Ma però, detto questo, quelle che potrebbero avere più rilievo secondo me per il rilancio dell'economia sono quelle che riguardano le novità sulle opere cantierabili, sotto fino al milione niente gare. Voi potreste dire sì, ma allora c'è meno trasparenza nei comuni. Sì, ma spesso i comuni piccoli per gare fino a un milione di euro non hanno, si perde molto tempo per le gare, e comunque questa semplificazione si aggiunge soprattutto per le opere grandi invece ai limiti che vengono posti, agli oneri compensativi e di riserva e alle spese per varianti rispetto ai progetti portati in conferenza di servizio. Questo potrebbe essere molto importante, visto che i progetti delle grandi opere si fermano in conferenza di servizi proprio per lievitare gli oneri compensativi, cioè di quello che spinge gli altri comuni o tutti gli altri soggetti in conferenza di servizi a chiedere che superfetti investimenti per cose che non c'entrano niente con l'opera, e appunto per le riserve. E oltre alle varianti, questo è ciò che porta il capitale privato a diffidare di poter finanziare le grandi opere in project financing. Poi troverete sui giornali che vogliono fare molto colore questa cosa delle spiagge, le spiagge in cui si trasformano le concessioni a lunga durata 90 anni ma diventano più onerose, quindi protesta coloro che hanno naturalmente la concessione fino a questo momento pagando pochi soldi, vi diranno che naturalmente lo Stato vuole privatizzare, li vuole cacciare. Attenti, perché invece durata e più onerosità significa certezza di investimento per realizzare un'offerta qualificata sulle spiagge, e soprattutto si integra tutto questo con le filiere alberghiere, rendendole delle vere e proprie distretti, reti d'impresa, e quindi con benefici per la possibilità di ristrutturare l'offerta. Da noi c'è una frammentazione troppo elevata dell'offerta turistica, bassa intensità di capitale, quindi bassi servizi, e che la gente poi a parità di spesa preferisce la Spagna e la Francia. Per l'occupazione, di sicuro, le due cose più importanti sono questo bonus pazzesco, una vera e propria vittoria della CISL, se posso dirla tutta, che è quello di 300 euro per i neoassunti a tempo determinato al mese. 300 euro al mese sono 3.600 euro l'anno di bonus per chi assume a tempo indeterminato. Voi direte, beh, non sei contento. Vi dirò che le imprese avevano chiesto al ministro di trasformare gran parte dei fondi non utilizzati entro il sessennio 2013, perché di questo si parla, queste sono le risorse che verranno destinate a copertura di questo bonus assunzione, di trasformarle, soprattutto di chiedere all'Unione Europea di trasformarle in crediti agli investimenti, crediti fiscali agli investimenti. Su questo l'Europa ha nicchiato, perché dice no, ma questo possiamo vedere dal 2013 in avanti, ma sulle vecchie risorse no, e diventa un mega bonus ad assumere. Ora voi direte, sì, contento, no? La mia riflessione di fondo è che noi continuiamo a non cambiare le rigidità in uscita e gli istituti di tutela del lavoratore tra un lavoro e l'altro, e continuiamo ad avere come unica soluzione quella di incentivare l'assunzione di tutti a tempo indeterminato. Risultato, noi aumenteremo il numero di coloro che sono rigidamente tutelati, e per ciascuno di questi ci sarà un giovane e mezzo fuori che continueranno a pagare di più il delta di minore retribuzione, minore certezza sui contratti e minori diritti. Quindi io preferirei una riforma organica, a dirvi la verità, che gli incentivi all'assunzione a tempo indeterminato per il Sud. Mi si dirà, meglio questo che niente, visto che al Sud in oltre 10 province abbiamo disoccupazione giovanile oltre il 45%. E poi infine, qui mi fermo, dopo le polemiche sulle sentenze recenti per i precari della pubblica amministrazione, soprattutto della scuola, ecco che viene la quantificazione, la copertura finanziaria, anche se questo si penserà con le misure che verranno assunte come oramai ordinario a luglio, perché questi sono oramai i tempi della contabilità pubblica, a luglio quando si mettono in sicurezza i decreti, ed è lì che ci sarà la manovra, quella che i giornali da settimane, dimenticandosi sempre queste cose, vi preannunciano dicendo ecco la nuova stretta. Non è che c'è la nuova stretta, a luglio ogni anno da 3 anni a questa parte si rifanno i saldi triennali e quindi si corregge quel che c'è da correggere, e a luglio già da adesso vengono previsti i numeri, ci saranno le risorse per assumere 67.000 precari nella scuola, 30.000 insegnanti, 37.000 ATI. Anche qua io la penso diversamente. Bisogna assumere tutti i precari a tempo indeterminato perché sono in fila solo perché hanno fatto i contratti? Io dico che bisognerebbe interrompere questa cosa, e bisognerebbe invece assumere chi ha più titoli. titoli pagandoli di più, se vogliamo qualificare la scuola, eccetera. Naturalmente mi si dice che io sono stupido e che bisogna essere un privatista, un taccerista. Fine dell'introduzione. Come vedete, il mio giudizio è un mixed feelings, come si dice in inglese. Insomma, qualche cosa buona, tante cose su cui non sono d'accordo. Ma sentiamo come la pensano i nostri ospiti. Io ho già detto troppo la mia, ma era per qualcuno di voi che non avesse avuto il tempo oggi di sfogliare sui giornali, di sentire bene in cosa consiste il provvedimento, che come vedete è complesso. Tremonti ha dato appuntamento alla stampa mercoledì della settimana prossima, addirittura dopo avergli illustrato qualche misura, dicendo: tanto voi domani scriverete solo sulle spiagge e su scemenze, quando lo avrete letto ci metterete un po' di giorni e capito, ci vediamo mercoledì della settimana prossima. Funziona così oramai in Italia. Chi è con noi oggi? È con noi Guido Gentili del Sole 24 Ore. Buongiorno e grazie a Guido Gentili. Buongiorno. Alessandro Barbera della Stampa, buongiorno Barbera. Buongiorno. E il professor Giacomo Vaciago, che siete abituati ad ascoltare molto ed è un mio idolo. Buongiorno professor Vaciago. Grazie per l'idolo, buongiorno a tutti. Comincerei da lei, professor Vaciago, che impressione ha di questa misura? Beh, è facile la battuta sull'ultima spiaggia, ma guardando nella sostanza sono perfettamente d'accordo con la sua o tua, come preferisci, diagnosi. Attenzione. Lo sviluppo economico che ci manca da 15 anni è un'altra cosa. Queste cose che il governo, stranamente non se ne è occupato il Ministero dello Sviluppo Economico e non a caso ha deliberato ieri, noi continuiamo a sbagliarla come metodo. Se questa era l'occasione per sapere se avevamo o no un Ministro dello Sviluppo Economico, era questa, ma non si è visto. Ma torniamo alla sostanza, molte di queste cose non fanno male, ma lo sviluppo economico è un'altra cosa e lo vediamo dai paesi dove c'è e o dove i governi lo cercano, perché chiaramente lo sviluppo è i guadagni di produttività. In un paese ricco come l'Italia lo sviluppo non sono né le spiagge né assumere un po' di precari, ma sono quegli enormi guadagni di produttività, cioè di efficienza, che hai investendo in nuove macchine e migliorando il capitale umano. Allora, con questi occhiali tu guardi tutti questi provvedimenti e ti ci trovi stretto, perché dici: ma chi mi garantisce il miglioramento della scuola che mi produce un miglior capitale umano? Chi mi garantisce che la nuova stagione di robot che escono dalla Germania il giorno dopo sono installati nelle nostre industrie se vogliono avere un futuro? Perché è questo lo sviluppo che insegniamo ai nostri studenti e il governo quando lo impara. Ecco, un bel giudizio iniziale che è sull'impostazione, per così dire, su come si fa la crescita aggiuntiva. Guido Gentili, che dici? Ma io dico che è un mosaico piuttosto importante di numerosi provvedimenti e ci vorrà forse effettivamente qualche giorno per valutarli tutti. Certo, c'è un dato di fondo da sottolineare, il fatto che non c'erano i soldi per fare qualche cosa di più, cioè è una manovra sostanzialmente a costo zero, come è stato ammesso dallo stesso governo, quindi non dovevamo su questo farci troppe illusioni rispetto alla promessa frustata di fine gennaio del governo, che poi ovviamente non c'è stata nei termini in cui era stata prospettata. È un secondo me un assemblaggio piuttosto intelligente e anche abbastanza si è fatto ricorso a tutte le risorse della fantasia per intervenire in tantissimi campi. Dobbiamo tenere presente di questo vincolo di fondo, che non c'erano i soldi per fare di più. Sono d'accordo con te quando ci sono alcune misure che destano qualche perplessità, come il bonus per esempio per i neoassunti, ma tante altre misure sono sicuramente delle misure utili che non produrranno, però in questo mi ricollego a quello che diceva Vaciago, non produrranno sviluppo subito, anche perché dovremo vedere, sono tutte misure che presuppongono uno sforzo nel tempo di implementazione normativa per essere davvero operative, quindi non aspettiamoci che queste misure approvate oggi ci fanno aumentare dell'1% il prodotto interno lordo da qui a pochi mesi, quindi questo non accadrà e questo dobbiamo tenerlo presente. Certo, sono anche delle cose interessanti dal punto di vista, se vogliamo, etico, perché mi riferisco per esempio al pacchetto fiscale non vessatorio che viene proposto dal governo, finalmente si imbocca una strada, almeno dal punto di vista del metodo, che arriva in qualche modo a compensare i cittadini e le imprese da una vessazione che dura da moltissimi anni. Quindi sono delle cose interessanti, ma non aspettiamoci che producano uno sviluppo immediato. Barbera, nel panorama delle informazioni italiane, la stampa di oggi è quella che fa tra i giornali, diciamo così, cosiddetti dipendenti. Metto da una parte Repubblica, che si occupa solo del colore del decreto di oggi, la butta sulle spiagge e fa solo un articolo su semplificazioni alle imprese, come se praticamente si sciogliessero le mani libere ai briganti. Io lascio questa impostazione a chi oramai è impegnato in campagna elettorale, col pieno rispetto naturalmente per i colleghi di quel grande giornale, per il suo direttore, però mi scappa da ridere, perché se questa è l'informazione dedicata a un provvedimento patchwork, non fondamentale, ma pieno di tanta roba che oltretutto colpisce e impatta anche per esempio la vita delle famiglie sui mutui, la vita delle imprese sui prestiti, perché si rimodulano il diritto di variare le condizioni con le banche, tanto per dirne una, ma le misure sono tante. Però voi siete tra quelli che fanno la scelta oggi più netta, perché nel presentarlo fin dalla prima pagina con un titolo "Sviluppo decreto con polemica", di cui ovvio non credo conto a lei il titolo che ha fatto il direttore Mario Calabresi, però c'è un commento immediato in prima pagina che inizia e gira dentro ed è il segno, insomma, che voi date al commento di questo provvedimento. Lo firma il professor Mario Deaglio, quindi un autorevole osservatore ed economista, e il titolo è molto netto ed è quello a cui si ispira il commento: senza soldi non si cresce. E proprio appellandosi a quello che Guido Gentili diceva qua, la finanza pubblica, dobbiamo abituarci a un orizzonte in cui di risorse aggiuntive non ce ne sono e anzi deve rientrare. Anche la richiesta delle imprese è quella che si ridefinisca il perimetro al ribasso dello Stato e del deficit e del debito pubblico, e quindi il denaro pubblico non ce n'è, bisogna assumere provvedimenti di semplificazione che sciolgano le mani all'economia. Però voi dite ma senza denaro pubblico però come si fa a crescere? È una, per così dire, una bella polemica, cioè è una polemica legittimamente keynesiana, se si vuole, però insomma rispetto agli orizzonti di questa finanza pubblica è come incitare la parte della maggioranza che vuole spendere di più a tagliare la testa a Tremonti, che ha come merito quello, se, non so se ne abbia, ma insomma ha quello di tenere il piede sul freno, al di là naturalmente dell'impostazione eccessivamente semplificata. Però questa critica si sente di dire che è proprio il limite di fondo di tutta l'impostazione della politica economica di questi anni. Come si fa allora dal vostro punto di vista, visto che è un po' difficile immaginare che si possa dire ai lettori che bisogna fare più deficit in questa fase? O forse bisogna dirglielo, che pensa Barbera? No, certamente per sostenere la crescita in maniera forte e netta ci vorrebbero un po' di soldi pubblici. Il problema è che non ci sono, e questo va detto. Non si può sostenere che il governo nasconde i soldi o è diventato un iperrigorista più del governo Visco Prodi degli anni di fine anni 90. La verità è che questo provvedimento, hai detto bene tu, è un insieme di cose, alcune giuste, alcune condivisibili, alcune molto giuste, altre forse opinabili. Tu criticavi il credito di assunzione per il Sud. Effettivamente, se quei quattro soldi che probabilmente si spenderanno, e che il ministro secondo me ieri ha omesso di dire che si spenderanno per fare questo, come alcune altre cose come le assunzioni nella scuola, potevano essere meglio utilizzati per fare scelte diverse. Per quanto riguarda il pacchetto semplificazioni, io sono fra coloro che pensa che le semplificazioni funzionano e come. Alcune, come quelle nelle opere pubbliche, credo che siano state fatte con siano state preparate con grande cura e con il bisturi. Quella sulle opere compensative, io sono d'accordo, è molto molto giusta. Altre, secondo me, sembrano veramente dei tentativi di correre dietro nulla. Il piano casa, che viene sostanzialmente riproposto in maniera pedissequa, sembra quasi una sfida alle regioni, le quali a questo punto sono sicuro che hanno partito un enorme contenzioso una nuova volta nei confronti del governo. Se avessi dovuto fare una scelta, se devo fare una critica a questo provvedimento, più che per i soldi lo criticherei per il fatto che laddove ha fatto scelte a costo zero avrebbe potuto avere un po' più di coraggio nel fare quelle liberalizzazioni che tanto vengono invocate spesso da Confindustria, che poi non vengono mai fatte. Ora noi andiamo in pubblicità, poi ritorniamo col professor Vascego, perché tra le tante cose c'è anche però un potenziamento molto forte dei poteri della Banca d'Italia, e quindi devo chiedere a Vascego, glielo anticipo, insomma qui andiamo con Draghi che diventa presidente della BCE ed è quasi fatta, anche se ovviamente intrecciamo le dita prima del Consiglio di giugno, però insomma c'è l'ok di tutti i governi, a cominciare da quello tedesco, e dall'altra Tremonti dà anche alla Banca d'Italia una bella batteria di poteri, perché il governatore e il board della Banca d'Italia potranno limitare i compensi dei manager, potranno limitare i dividendi agli azionisti, potranno intervenire dentro le decisioni degli organi bancari prima dell'attuazione, proprio sulle politiche interne, insomma una cosa che fornisce finalmente i denti alla Banca d'Italia, di cui dopo le riforme recenti era un pochino sprovvista. E allora volevo chiedere al professor Vascego se questa, che l'informazione italiana ha dipinto per anni come una specie di coppia di nemici da cartone animato, quasi, perché era diventato leggendario il fatto che Tremonti non perdesse occasione per fare una battutina su Draghi e poi Draghi rispondesse, si è poi volta di fronte a questo nuovo quadro europeo della crisi dell'eurodebito, è una specie di sorpresa, perché gli uni con gli altri si danno una mano. Crederci oppure no? Questa sarà la mia domanda. Ricominciamo con Vascego, ora pubblicità. Allora, siamo tornati qua in studio, abbiamo gli ospiti collegati, il professor Vascego, Alessandro Barbera della Stampa, Guido Gentili del Sole 24 Ore. Naturalmente diamo sempre un occhio a quello che è il contesto in cui poi la crescita inferiore dell'Italia rispetto alla media dei nostri grandi concorrenti va letta, e cioè quella della permanente crisi dell'eurodebito, permanente, perché siamo a ben oltre un anno, siamo a un anno e tre mesi dal manifestarsi del primo segni di incrinatura della credibilità della posizione greca, e a 15 mesi di distanza, dopo tante chiacchiere europee per l'adozione del Fondo Europeo di Stabilità Finanziaria, poi la ridefinizione dal 2013 in avanti, due mesi fa, del meccanismo che dovrà subentrare, eppure siamo ancora in presenza di un mercato che non crede alla sostenibilità dei debiti dei paesi europeriferici, come si chiamano, e siamo in presenza di nuove negoziazioni di pacchetti aggiuntivi di tagli alla finanza pubblica, di pacchetti importantissimi, cioè la Grecia, pensate, deve fare altri 78 miliardi di euro di tagli, e il Portogallo, dopo aver perso governo proprio sul no delle due posizioni, sia di destra che di sinistra, ai tagli voluti dall'Europa, sta rinegoziando a propria volta un pacchetto che inevitabilmente lo porterà col segno meno sulla crescita per altri due anni. Questo è il quadro europeo nel quale leggere il contesto della bassa crescita italiana. Di buono c'è che da aprile il segno delle commodities sui mercati internazionali sembra invertirsi, e il petrolio è a quasi meno 9% rispetto ai massimi, e questo riguarda anche le commodities agricole come molti altri metalli. Quindi la potente fiammata inflazionistica che si era accesa per via della rivoluzione nordafricana e paesi medio orientali e Libia sembra in qualche maniera contenersi, però restano i fondamentali di una crescita inferiore per 15 anni. In questo quadro, il fatto che vada, secondo il professor Vascego, un italiano, molto probabilmente, non possiamo dire con certezza, ma molto probabile, alla BCE, e il fatto che il tesoro dia queste armi di intervento più dirette, più potenti, più efficaci, più rapide nei conti delle banche e nella remunerazione dei banchieri, cosa vuol dire? Vuol dire che l'Italia almeno su questo ha imparato la lezione, oppure i due hanno iniziato a parlarsi e a capirsi? Qual è la sua opinione, professore? Ma certamente è un atto significativo e importante, che però si inserisce in una tendenza generale. Tutte le banche centrali hanno visto in questi anni aumentate le loro responsabilità e competenze di vigilanza sul sistema bancario. Anche nell'Inghilterra, che 10 anni fa aveva separato le funzioni, togliendole alla Banca d'Inghilterra e dandole alla FSA, Financial Service Authority, è tornata indietro. E la Banca d'Italia, per tradizione centenaria, è sempre stata molto vigilanza, è sempre stata penetrante. Guardiamo cosa succede in una banca dopo un'ispezione della Banca d'Italia. Quindi non a caso le nostre banche hanno poca carta greca, portoghese, irlandese, non a caso le nostre banche hanno sofferto meno, non sono solo i nostri banchieri amici che sono più bravi, era anche l'ispettorato della Banca d'Italia. che li torturava. Allora, si aumentano i poteri, le responsabilità e le competenze anche politiche, perché il paradosso degli anni scorsi è che troppi banchieri sono andati a casa con una barca di soldi e il giorno dopo quella banca è fallita. Questo è drammatico. Oh, però volevo tornare, se posso, su un tema senza soldi. Mario De Aglio, La Stampa di oggi. Attenzione, Mario Draghi a Torino ha ricordato in una conferenza che nei prossimi 20 anni dobbiamo tagliare del 7% la spesa pubblica e che sarebbe bene a tal fine che la spesa tagliata non fosse quella più utile per lo sviluppo. Se qualcuno mi dice servono più soldi per lo sviluppo, allora i tagli non devono essere solo del 7, devono essere del 10. In altre parole, la cosa che mi preoccupa di questo provvedimento, e mi aspetto che domani a Bergamo ci sarà un qualche applauso, è che nessuno protesta, salvo questa stupidaggine delle spiagge. Mi spiego meglio. Se vuoi veramente far tornare a crescere questo paese, i provvedimenti necessari inizialmente sono impopolari. Lavorare di più è meglio. Rinnovare gli impianti, migliorare gli esami all'università facendoli meglio. Sono tutte cose che non ti procurano applausi. Quindi se il governo fa le misure in campagna elettorale, io già dubito che siano quel che serve, perché chiaramente le fa per scontentare meno possibile. Noi prima o poi, non so quale governo e se lo farà uno di destra o di sinistra, abbiamo bisogno di svolte radicali che inizialmente non sono applaudite, perché le corporazioni, le municipalizzate, tutte queste cose corporative che sono il contrario dello sviluppo e hanno tanti amici. E questi gli devi dare un pugno in faccia, esagero per capirci. Certo. Se vuoi lo sviluppo, che poi è la torta che cresce per tutti. Ma quella è una cosa che costa politicamente. Un governo come questo, che vuole il consenso quotidiano, non riuscirà mai a imboccare un binario che inizialmente perdi voti. Questa è la mia riflessione politica. Questo è sui costi della discontinuità, per così dire, che è un po' la logica per cui molti hanno criticato i tagli lineari di questi anni, che Tremonti difende dicendo: io se non faccio così e non faccio una distribuzione più o meno equa degli oneri, si solleva una protesta per cui non riesco a portare a casa neanche questi saldi che ho contenuto in questi anni. Ma c'è invece chi dice, tra quelli, secondo me per analisi economica non si può che essere d'accordo con chi sostiene la tesi di Vaciago, che proprio perché il perimetro della finanza pubblica è limitata, allora vanno diversamente, molto energicamente, diversamente ripartiti i pesi della finanza pubblica attuale. Si tratta di prendere ciò che sta da una parte e magari serve molto molto molto meno, anzi incoraggia a volte i pesi improduttivi inefficienti, e concentrarlo invece laddove, per esempio il welfare è un classico esempio di questo. Noi abbiamo un welfare di altri tempi che lascia completamente privo di risposte per il problema della tutela al lavoratore, non sul posto di lavoro dove era, com'era come un tempo, è la vecchia logica della cassa integrazione ordinaria e straordinaria, e in deroga come l'abbiamo introdotta in questi 3 anni per tappare le falle, ma il problema è quello della tutela del lavoratore, ripeto, in quanto tale, da un lavoro all'altro mentre cambia l'offerta sul mercato del lavoro, la domanda di lavoro come l'offerta, e tutelando lui, non la difesa del posto di lavoro come era. Questo è un classico buco che noi abbiamo nel welfare, che ci spinge a credere poi che il problema lo risolviamo non con istituti che servono ad accrescere la produttività multifattoriale, ma invece dicendo: beh, adesso una manciata di soldi per fare l'assunzione a tempo indeterminato. E questo è un po', secondo me, il limite dal punto di vista dell'occupazione anche di queste misure, precari scuola e occupazione aggiuntiva sud. Guido Gentili, il problema posto da Vaciago è un problema che riguarda naturalmente oramai la forma del nostro sistema politico, più che altro. Tu che pensi? Esatto, io il discorso delle riforme, le riforme, che quelle ovviamente soprattutto quelle dolorose, e come si dice con termini spesso abusati, a lacrime e sangue, si fanno all'inizio della legislatura. È impossibile pensare di poterle fare a fine legislatura. Quindi il governo aveva vinto, anzi stravinto politicamente nel 2008, doveva allora impostare un programma di riforme dure, severe e magari anche impopolare, non avendo, diciamo, all'orizzonte una scadenza vicina elettorale. non è stato così. Per parziale spiegazione si può diciamo così introdurre il discorso che c'è stata una crisi violentissima che ha colpito non solo l'Italia ma tutto il mondo, come sappiamo la crisi più dura dal 1929, e questo effettivamente ha un po' gelato i piani. Però dobbiamo dire che questo è un vizio antico dell'Italia, di questo governo e non solo di questo governo. Io ricordo quando nel 2006 vinse le elezioni il centrosinistra con Prodi, ricordo il primo documento programmatico economico e finanziario di Tommaso Padoa Schioppa, che profilava delle riforme severe, molto condivisibili. Non se ne fece nulla allora e non se ne è fatto poi nulla successivamente. E così è accaduto anche per l'esperienza del governo Berlusconi, che ovviamente ha avuto dei problemi della maggioranza imponenti, come abbiamo visto nel corso dell'ultimo anno. Ma se si ragiona sempre con un occhio rivolto al consenso, oggi per le elezioni politiche, domani per quelle amministrative, dopodomani per quelle europee, è chiaro che diciamo le riforme impopolari non escono mai dai cassetti del governo. Allora, io proporrei di fare un paio di telefonate e poi sentiamo l'opinione di Alessandro Barbera. Cominciamo con Michele che ci chiama da Foggia. Prego Michele. Buongiorno a tutti. Io sono un imprenditore turistico ed anche consulente del lavoro, quindi ho sentito la sua introduzione per quanto riguarda gli incentivi alle assunzioni a tempo indeterminato. Io non tocco neppure il discorso spiagge perché francamente condivido quello che ha detto lei, però per quanto riguarda il settore turistico credo che questi incentivi alle assunzioni a tempo indeterminato servano in realtà a poco. È vero che un imprenditore nel settore turistico deve puntare a destagionalizzare, a cercare di lavorare più mesi possibili, però la realtà attuale dei fatti è che comunque il lavoro turistico è, almeno per quello che riguarda la Puglia, un lavoro stagionale. E per le assunzioni a tempo determinato, che sono fondamentali nel settore turistico, è anni, anzi oserei dire secoli quasi, che non si fa nulla. Quindi noi abbiamo un periodo in cui di lavoro che si sta mano a mano riducendo, cioè diciamo nella migliore delle ipotesi 4 mesi di lavoro, e costi altissimi per quei 4 mesi, per quanto riguarda, io parlo per quanto riguarda il costo del lavoro. Non c'è una sola riforma, a parte quella del diciamo lavoro accessorio per i giovani, i famosi voucher, così si chiamano, che agevolano in qualche modo a sviluppare, cioè a contenere i costi e quindi... Chiarissimo, la posizione di Michele è, state attenti che qui il problema non è tanto a incentivare le più assunte a tempo determinati alle garanzie dei costi attuali, il problema è quello di disciplinare diversamente le tutele per consentire forme di assunzioni magari a tempo determinato ma con maggior tutele e chiarezza da parte di chi le utilizza. Qui il problema è aperto perché c'è dallo scorso novembre un avviso, una richiesta di avviso comune, cioè di accordo tra parti sociali. L'avviso comune è inviato dal ministro Sacconi a Confindustria, a tutte le associazioni datoriali e sindacati, che dice: mettetevi d'accordo su come cambiare lo statuto dei lavoratori. Ieri la Camusso ha detto chiaro: io di statuto dei lavori, cioè di quello che propone il ministero sulla scorta del lavoro di Marco Biagi e Michele Tiraboschi, non ne voglio sentir parlare. Lo statuto dei lavoratori non si tocca. E la mia opinione netta è che fino a che questa sarà l'ideologia imperante, cioè che chiunque vuole modificare il regime attuale passando la flex security è un bandito che attenta ai diritti, questo significa più giovani con meno denari di retribuzione, meno diritti e meno tutele e rapporti meno lunghi ancora. Questa è la mia secca risposta, se volete ideologica, quella ideologica della CGIL. Io non credo che la mia sia ideologica, penso che potrei dimostrare, però penso che detto questo non si fa un passo avanti così. Informazioni sulla circolazione stradale. E molti ascoltatori non sono d'accordo, dicono: ma come, sei contro la sanzione a tempo indeterminato, una delle poche cose buone che c'è in questo decreto. Guardate, per essere chiari, ciò che ci è stato detto in sede di concertazione del provvedimento, in sede di illustrazione, non di concertazione, è che a questo incentivo, io vorrei che vi fosse chiaro, vedremo, ma a questo incentivo il governo propone di destinare ben 5 miliardi dai FAS, di fondi non utilizzati, delle tante decine non utilizzate che altrimenti rischiamo di perdere entro il 2013. 5 miliardi, lo dico per la 16ª volta, 5 miliardi, secondo i conti che ci facciamo in parecchi, sono in larga misura ciò che servirebbe per i primi 3-4 anni, di costo, per varare una riforma complessiva delle tutele sul mercato del lavoro italiano, verso una specie di contratto unico che metta da una parte la durata del contratto e dall'altra faccia alzare le tutele, con costi certi e non giudiziali, di flessibilità, tanto all'ingresso quanto all'uscita, toccando anche l'articolo 18. Quindi vi chiedo, 5 miliardi per avere più assunti a tempo determinati al sud? Io dico forse è meglio pensare all'architettura, ma forse sbaglio. Che ne pensa Alessandro Barbera? Ma io, se posso fare un passo indietro, se me lo permetti, faccio uno spot sulla questione delle riforme. Non si può dire che questo governo non abbia fatto le riforme, ne ha fatte di riforme: la riforma della scuola, dell'università, il federalismo, pur con tutte le loro contraddizioni, sono delle riforme importanti. A mio modestissimo avviso, la sensazione è che il governo abbia gettato lo sguardo molto lontano, abbia pensato a riforme che molto probabilmente costavano consenso alla lobby più della parte avversa che alla propria, e non ha pensato a quelle riforme come quella delle professioni o la riforma del sistema delle municipalizzate, tanto per fare un esempio, che molto probabilmente sarebbero costate più consenso della propria parte politica, ma probabilmente sull'economia avrebbero avuto un impatto più forte. Io personalmente la vedo così. E sulle assunzioni? Sulle assunzioni io credo che, come dici tu, la questione della flessibilità sia la questione di fondo. Il credito d'imposta al sud può servire a qualcosa. Non sono sicuro che sia la soluzione per i problemi mali del mezzogiorno. Certamente una cosa per il mercato del lavoro la si può fare, e certamente potrebbe essere quello di creare una maggiore flessibilità in uscita e creare un minimo di tutele. Questo probabilmente lo si potrebbe fare senza necessariamente aggravare così tanto il costo per le casse dello Stato. Però naturalmente ci vorrebbe consenso sociale su questo. Sentiamo ancora un paio di telefonate rapide. Corrado che ci chiama da Verona. Prego Corrado. Sì, buongiorno Oscar, buongiorno ai suoi ospiti. Niente, butto lì una notizia che ho sentito ieri da una persona che si occupa di mercato del lavoro, sì, e conosce bene la situazione tedesca. La Siemens, sono rimasto esterrefatto, ha fatto uno studio sull'evoluzione demografica in Germania da qui ai prossimi anni. Bene, sì, vista la domanda in crescita di manodopera qualificata e il progressivo invecchiamento della popolazione in Germania, come sta succedendo in Italia, ha firmato un accordo con i sindacati che da qui in poi non licenzierà più nessuno. Ma è piccolo particolare, ci sono due particolari, Corrado. Sì, no, è vero, te lo confermo anch'io. Nel senso che lì siamo ai minimi della disoccupazione da pre-unificazione, quindi siamo ai minimi rispetto a quando la Germania nel boom, prima che poi i costi dell'unificazione esplodessero. Primo, secondo, c'è una questione di un paese che ha un tasso di riproduzione comunque, cioè un tasso di fertilità per donna fecondabile che è superiore al nostro, quindi stanno messi dal punto di vista il bilancio intergenerazionale messi meglio di noi, perché hanno un fisco meno pesante sulla famiglia di noi, ma comunque non stanno messi bene neanche loro. Insieme all'Italia è il paese a più rapida invecchiamento medio della popolazione nei prossimi 30-40 anni, e per questo quindi ne decide di non licenziare. Hanno fatto una cosa, non so se ti è chiara Corrado, hanno deciso di alzare automaticamente il tetto pensionabile. Ecco, pensiamo ogni volta che si tocca questo tasto in Italia cosa succede. Il governo per questo ha alzato i coefficienti automatici, ma in una maniera molto diluita nel tempo, per impedire che con l'intervento fisso i sindacati esplodessero. Stefano che ci chiama dalla provincia di Pavia, prego Stefano. Sì, buongiorno professor Giannino. Secondo me è una manovra prettamente elettorale. Eccoci qua, giudizio politico, perché dici? Ma in sostanza hanno dato la classica aspirina un po' a tutti: assunzioni, bonus assunzioni per il mezzogiorno, un po' di ricerca all'università, 65.000 assunti nella scuola, la letterina all'agenzia delle entrate per dire signori datevi una calmata. Sì, quella, cioè, devo dire la verità, anche per me veramente la cosa mi fa ribollire. Sì. Non lo so, detto da Tremonti, sì, considerate che l'agenzia delle entrate è il suo braccio armato. Sì, sì. Poi assolutamente mi trovo d'accordo con il professor Vacciago che non è questo quello che serve. Servirebbe una seria riforma fiscale, una seria riforma del lavoro, però andando alle elezioni ogni anno, ogni sei mesi, va bene, ogni due anni non posso si chiedere, grazie Stefano, posso chiedere al professor Vacciago, domani insomma c'è un appuntamento importante, lei stesso lo ha citato, 6.000 imprenditori a Bergamo, tutti gli iscritti a Confindustria sono stati coinvolti in queste settimane in una decisione nuova di fare un convegno a porte chiuse senza politica, quindi insomma è chiaro che il senso è, c'è un momento particolare. Se dovessi esprimere un auspicio, una richiesta, una speranza, un augurio in vista dell'assise di domani Bergamo, il professor Vaciago cosa chiederebbe? Beh, che il governo prometta che dà retta allo slogan della riunione di domani. Queste assise dicono sbloccare la crescita, liberare il mercato, premiare il merito. Io che in queste tre cose si rinchiuda ciò che serve per lo sviluppo economico di questo paese non ho il minimo dubbio. Attenzione che sono tutti slogan facili da dire. Certo. Premiare il merito, l'agenzia che deve valutare le mie lezioni e dire se sono un bravo professore o no, è ancora di là da venire. E quando mai gli stipendi dei professori universitari italiani saranno in base al loro merito? Ci vogliono 10 anni, cosa aspettiamo? È vero. Oh, le strutture inglesi per fare ciò esistono da molti anni. E quindi, poi tutti siamo d'accordo a premiare il merito, ma voglio vedere quando incominci a fare le graduatorie, te sì, te no. Esatto. Quanti vanno al TAR? E sappiamo del resto com'è finito l'impegno annunciato, sbandierato dal ministro Brunetta di fare il salario di merito di produttività nella pubblica amministrazione concentrato solo sul 25% dei dipendenti. Sapete benissimo, abbiamo dedicato trasmissioni dopo un anno e mezzo di lotta, è finito che nessuno ci perderà un solo euro e quello che ci sarà più aggiuntivo non sarà solo il 25%. Quindi ecco la dimostrazione concreta. In realtà le scelte di discontinuità sono quelle che producono discontinuità per crescita aggiuntiva e per questo bisogna rassegnarsi. Ci sarà gente che ci perde in nome di coloro che devono guadagnarci di più, i giovani meno tutelati, le donne, il sud che è rimasto indietro, ma anche la parte più produttiva del paese, il nord, gravata da tasse e da rapina da questo Stato. Finché la riforma fiscale resta una promessa, perdonate cari elettori di centrodestra, è 17 anni che vi hanno preso per il fondo schiena. Io mi metto tra quelli e però penso che vada ripetuto, detto incessantemente, e a chi dice non si può bisogna ribadire perché altrove sì e a chi dice non si deve perché altrimenti i saldi peggiorano dicono no, si può fare anche coi saldi più bassi. Il problema è mettere in conto che i voti, dopo esserseli presi, bisogna anche meritarseli con la coerenza. Bene, appuntamento lunedì, grazie al professor Vaciago, a Guido Gentili ed Alessandro Barbera. A lunedì, linea Giornale Radio. Radio 24. La passione si sente.